Che genere di storia ti piacerebbe vivere? Una storia di libertà, probabilmente, versus una storia di dipendenza. Quindi forse io per prima potremmo vivere la nostra vita come se fosse la storia che noi vogliamo raccontare. Basandomi su quello che ho imparato con il professor Gol, e sul libro 11 delle Confessioni di Agostino, nel quale si racconta, Agostino scrive che la vita di ogni persona è una storia. Tutte le nostre vite hanno in certo senso la struttura di una storia. Ci sono poi anche alcune vite che non hanno nessuna trama e non vanno da nessuna parte, e queste vite non hanno alcun significato e non finiscono e non sono veramente felici, completamente felici. E se io fossi il carattere principale, l'eroina o l'eroe della storia che è quella della mia vita, che genere di storia vorrei o vorresti vivere? Mi piacerebbe vivere una storia di horror? Ti piacerebbe una storia di horror? O preferiresti vivere una tragedia oppure come una commedia? Che ne dire invece di una storia che finisce ed essi vissero felici e contenti? Per riuscire a vivere questo, penso che ciascuno di noi sia perlomeno consapevole dell'importanza di stare nel momento presente per poi raggiungere fini degli scopi futuri che abbiamo davanti alla mente come la modalità nella quale ciascuno di noi vive la storia. Ricorda che la mindfulness, che adesso è molto di moda, consiste nell'essere presente a se stesso, sapendo quali sono i nostri fini e dirigendo le nostre e le mie emozioni in modo tale che siano in accordo col raggiungimento di questi fini. La mindfulness è un certo strutturare le nostre emozioni in modo tale da poter posticipare una gratificazione immediata per poi essere in grado di raggiungere qualcosa più alto che è un bene più alto. E quindi la mindfulness non è poi sempre così facile da vivere. Noi ci preoccupiamo del futuro, ruminiamo sul passato, siamo molto vulnerabili a quelle che sono le dipendenze che vanno dal diventare dipendenti dal cellulare, dall'uso di droga o dall'abuso di alcol, ma noi possiamo anche darci da fare, lavorarci per migliorare e ricreare costantemente noi stessi e rafforzare i nostri poteri di mindfulness. C'è uno dei padri della Chiesa, Gregorio di Nissa, che dice una frase che a me piace molto e dice che in un certo senso ciascuno di noi è il genitore di se stesso, che noi siamo il genitore di noi stessi, ciascuno di noi. Quindi è la propria mamma, è il proprio papà di se stesso e diamo la nascita a noi stessi attraverso le nostre azioni. Noi ci modelliamo sulle nostre azioni. Molte dipendenze, in un certo senso, sono una questione di scelta, una decisione su quale attività ha più significato e virtù in qualsiasi momento dato. La capacità di posporre la gratificazione è la manifestazione di uno stato nel quale ciascuno di noi è capace di controllare tutti i nostri desideri di ogni genere in vista di ottenere qualcosa o un bene molto più grande in futuro che non abbiamo ancora raggiunto. Quindi quando io lavoro, quando studio, molto spesso è molto dura, è molto pesante, mi stanco, sono assonnata, come quando ieri sono dovuta rimanere seduta per 5 ore fino alle 5 del mattino alla stazione di Santa Lucia Venezia e poi ero assonnata durante la lezione, ma in un certo senso io sono cosciente e in un certo senso mi esercito sul posticipare le gratificazioni per ottenere un bene più grande in futuro. Attraverso la mindfulness e attraverso l'essere presente a me stessa e a noi stessi, noi diventiamo così in grado di coordinare e di dare una forma a tutti i nostri desideri. In un certo senso, noi ci diamo la forma attraverso le nostre azioni. Come diceva Aristotele, we are what we repeatedly do. Non era proprio così la frase, ma il significato è questo, e si potrebbe anche dire, fare l'esempio con la maschera, che a me piace tanto, ciascuno di noi ha una maschera che è la sua, può provarne varie nella vita e queste maschere diverranno man mano sempre di più la sua attraverso le azioni che verranno fatte indossando questa maschera. Ad un certo punto, quando io ho scelto e vivo quella maschera che è la mia, per cui io sono fatta, non la cambio più e sarà molto difficile distaccarla dalla mia faccia, perché la maschera e il mio viso coincideranno. E vi faccio questo piccolo dono insieme alla musica e alla danza. E mi faccio anche gli auguri.